30 gennaio alle ore 21. Coessenza presenta il laboratorio di scrittura creativa Bianco. Partecipa anche tu. Vieni alle Officine Babilonia di Cosenza. Oppure segui la diretta su transizionedifase.org. Condividi i tuoi scritti. Ascolta gli altri.